siamo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, mercoledì 23 ottobre. Molto bene, l'autunno è decisamente inoltrato, ormai è finita, è quasi Halloween, i bambini stanno impazzendo qua fra ricerca di costumi, scherzetti e robe dell'orrore. Siamo tutti in direttissima per capire insomma come affrontare questo autunno-inverno, perché noi la memoria dell'estate non la perdiamo mai. Detto questo, scusate questo piccolo sfogo, ma sono da sola, sono in studio da sola e questa è una cosa che non capita mai, quindi io posso parlare a ruota libera senza la mascotte che mi interrompa, senza i ragazzi che suonano e parlano e chiacchierano tra di loro, e senza insomma rumori molesti accanto a me, quindi posso continuare a parlare a ruota libera per la prossima mezz'ora, ma non lo farò perché vi voglio bene e i nostri ascoltatori per noi sono sempre al primo posto nel nostro cuoricino, quindi non parlerò ininterrottamente per un'ora. Però facciamo questo, andiamo a ripescare nel calderone delle registrazioni dei nostri laboratori una registrazione un po' più vecchia, prima dell'estate, parliamo di Eufonica, quindi maggio, quindi Bologna Fiere, che ha ospitato appunto questo evento che era la sua seconda edizione, Eufonica, la fiera della musica e della didattica musicale. Ne abbiamo già parlato tantissimo di Eufonica, quindi insomma bene o male sappiamo di cosa stiamo parlando. Direi che possiamo andare a ripescare un'interessante intervista che avevamo fatto e non avevamo ancora mandato in onda, perché appunto il materiale che abbiamo in archivio è veramente tantissimo. E sono i Garisenda, un gruppo di quartetto di saxofoni interessantissimi, veramente simpatici, oltretutto dei musicisti amici, quindi li mandiamo volentierissimo e ascoltiamo questa intervista, quindi fatta Eufonica a maggio. Eccoci di nuovo, qui è Eufonica 2024 e siamo con un quartetto di saxofoni. Questo quartetto io faccio dire a voi come vi chiamate perché e il perché vi chiamate così, perché secondo me è un nome, è il più bel nome che abbia sentito quest'anno, veramente, complimenti. E li ringraziamo tantissimo, intanto ve li presento, Giulia, Filippo, Nicola e Marco. Diteci come vi chiamate? Allora, il nome, io sono Marco, parlo per primo perché, data la mia età, potrebbe essere anche l'ultima volta che sentite la mia voce. Ma dai! E il gruppo si chiama Garys, col genitivo sassone, Enda, che è una anglofonizzazione del nome della torre bolognese, che adesso è un po' in crisi, pende. E quindi io ho pensato di dare questo nome perché il nostro repertorio non è ben definito. Siamo partiti pensando alla musica di un grande musicista afroamericano, Julius Temple. Da lì poi si sono allargate le prospettive, parte degli altri brani sono miei, io sono sax baritono e ho cercato di coinvolgere questi bravissimi e giovani professionisti della scena bolognese che suonano gli altri strumenti, quindi Giulia Carriero suona il sax contralto e il sax soprano, Nicola Parolari suona il sax contralto per il momento e poi abbiamo Filippo Cassani che suona anche lui per il momento il sax tenore. Per il momento vuol dire che altri strumenti si aggiungeranno, non che qualcuno glieli porta via. Sì, non si va a eliminazione. Sì, non si va, ma per addizione, ecco, esatto. Perfetto. Ecco. Ecco, bene, farei parlare, se tu sei d'accordo, Giulia, che so certo. Che io sono stata coinvolta da Marco Filippo in questo progetto. Suono il sassofono soprano, che è il, diciamo, il mio principale strumento, il sax contralto. Niente, ho iniziato a studiare il sassofono quando ero più piccolina con la banda del paese, e ho continuato i miei studi finché poi ho iniziato il conservatorio e, diciamo, ho iniziato poi a, diciamo, a dedicarmi all'improvvisazione in particolare. Quindi questo progetto mi interessava molto, proprio perché coinvolge anche oltre, diciamo, il repertorio di Julius Enfield e il repertorio di Marco, anche molto, è molto ludico, si improvvisa insieme, quindi è anche molto divertente, diciamo, è molto attinente a quello che mi piace fare. Ragazzi, se doveste consigliare a dei fanciulli, quindi giovani, parliamo di scuole medie, dalle scuole medie in poi, questa carriera, quindi non il musicista in generale, ma proprio il sassofonista, e quindi lavorare su questo strumento, quale sarebbe un consiglio, due dritte? Lo so, è una domanda difficile, tutti fanno l'espressione che state facendo voi quando glielo chiedo, tutti i musicisti, perché effettivamente ognuno poi ha avuto il suo percorso, no? Io per prima ho cominciato per motivi di famiglia, diciamo, e ho portato avanti il mio percorso diversamente dalla mia famiglia, e ognuno trova il suo modo e il suo scopo all'interno del mondo musicale. Però diteci un po', no? Come Giulia ci ha raccontato come ha cominciato, magari come avete cominciato voi, e cosa potreste consigliare a dei giovanissimi? A me la prima cosa che viene in mente è che... Sta parlando Filippo, così... Sì, sono Filippo, sono il sax tenore. A me la prima cosa che viene in mente, probabilmente perché sento di avere questa colpa, questa mancanza io, è di, se hanno la fortuna di iniziare questo percorso presto, di studiare tanto da giovani quando hanno tempo, perché poi così hanno il avranno il tempo per suonare e non dovranno mettersi in pari. Certo, anche se non si smette mai di studiare, è una banalità, ma è così, però... Si crea il tempo, questo. No? O meglio ancora, il tempo crea tempo, quindi è giusto. Sì, probabilmente, giusto. Purtroppo quando ne hai di più che lo butti via, che lo sprechi. È vero. Nicola? Allora, domanda difficile, però... Anch'io ho iniziato da piccolino, in realtà, a suonare il sassofono in banda, e quindi una cosa sacrosanta, magari per chi non è nato in città, che vedo che qua a Bologna non è così diffusa, le bande sono una cosa bellissima secondo me per approcciare la musica, uno strumento affiato come il sassofono da piccolini, perché ti danno l'occasione comunque di suonare insieme agli altri in un contesto non rigido, non accademico, ma sempre improntato al divertimento. E io da poco ho iniziato a insegnare anche dei bambini, e il consiglio che mi sento di dire è di divertirsi, insomma, in quell'età lì è giusto studiare, ma approcciare la musica come un divertimento e non come un obbligo per cui per forza tu devi raggiungere determinati obiettivi perché per far contenta la nonna che ti sentirà alla cena di Natale, insomma, non è quello l'obiettivo. Sì, assolutamente. Va bene, Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io voglio dire, sono quello che probabilmente ha iniziato più tardi di tutti gli altri, perché io da giovane volevo fare l'atleta, e poi dopo verso i 20 anni, 19-20 anni, ho deciso che mi interessava fare il musicista piuttosto che non il biologo, come invece avrebbe voluto mio padre, no? E quindi quando poi mi sono iscritto al conservatorio, in quegli anni là, i sassofoni c'erano già, li avevano già inventati, però a Milano, sono milanese di origine, il conservatorio non c'era. Allora l'unico posto dove mi presero a quell'età lì era la classe di composizione sperimentale con Franco Donatoni, che io non sapevo neanche chi fosse quando ho iniziato. Quale onore, sì, il maestro Donatoni. Sì, ma non sapevo la statura, no, del personaggio, per cui ho detto, boh, andiamo da Donatoni, ecco, pur di esserci e pur di imparare i rudimenti della musica. È molto importante, secondo me, e riprendo quello che hanno detto loro, sia Giulia che Nicola, che se uno inizia a suonare da piccolo si crea una memoria neuromuscolare per cui uno non si sente più, non ha più questo senso di inferiorità, che per esempio vedo che Filippo annuisce, che io comunque di sicuro ho. Io se non suono un giorno, mi sembra, il giorno dopo mi sembra che di non saper più suonare, no? Ho questo senso di colpa. Invece chi ha iniziato presto, no, lo fa con una naturalezza, acquisisce una dimestichezza con lo strumento. E poi la banda che veniva snobbata, no? Così come un posto di anziani che vanno lì più per bere vino rosso che per suonare. Gli anziani fanno, magari facevano anche quello, però dopo gli altri no, ecco, e quindi non è detto che uno debba iniziare subito con gli studi del Moulez o del Ferling in tutte le tonalità, cose stranissime, no? Come... Vabbè, la banda sia per gli ottoni che per i fiati che per le percussioni, quindi parlo in prima persona, è proprio scuola di vita, soprattutto certo, quando si è piccoli, è un'esperienza eccezionale. Formidabile. Io l'ho fatta in parte perché sono una cittadina e a Bologna purtroppo le bande non è che siano così coinvolgenti, quindi è più facile andare in una scuola di musica o in conservatorio alle scuole medie piuttosto che in una banda, no. Mentre nei paesi vedo che ancora oggi è molto più richiesto anche come percorso, sì, dalle, sì, famiglie, e secondo me è proprio scuola di vita per noi musicisti. Tant'è vero che ho in animo di comprarmi o di ricomprarmi il clarinetto basso e di andare a suonare nella banda di Casalecchio. Bene, ecco. Vamo là. Vedi? Vamo là. Bene, quindi da Eufonica è tutto. Salutiamo i Garisenda, quindi. Grazie. Sperando di stare in piedi. Staremo in piedi, certo. Ciao. Ciao, grazie. Se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila. Non ce n'è uno che ritorni. Valla non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo amore. Accidenti. piansero vedendoti ballare, di essere morti da sempre anche se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso e ama davvero, senza nessuna certezza. Che commozione, che tenerezza. Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino, e ora torniamo, diamo il nostro filologico alla trasmissione, e cioè continuiamo con le interviste. Abbiamo avuto un'intervista lunga con i Garisenda, interessantissima, e adesso invece passiamo alle interviste che hanno fatto i nostri bambini nei laboratori estivi, quindi in giro fra il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Campania, la Sicilia. Abbiamo intervistato ovunque, in ogni dove. Ascoltiamo i nostri bimbi. Allora, ciao, oggi vi volevo chiedere quale azione potresti fare voi per salvare il pianeta. Ok, inizio io. Allora, sicuramente cercare di comprare meno cose online, così quando ci consegnano i pacchi non inquiniamo con la benzina o altre cose. Poi usare dei prodotti ecologici, magari uno se li fa anche in casa, così inquinano meno l'ambiente e sono meno chimici. Bene. Bene. E poi usare prodotti di seconda mano, così non devono essere prodotti e usiamo delle cose che ci sono già. Anch'io li uso, tipo dei miei amici mi passano dei vestiti e io li uso. Benissimo, ma sei avanti. Io direi innanzitutto cercare di usare più la bicicletta e meno la macchina, sicuramente, e non sprecare l'acqua quando si fanno le cose in casa, e queste sono cose che possiamo fare tutti quanti. E poi bisognerebbe chiedere a quelli che sono brutti e cattivi sopra di noi, che hanno i soldi da investire, di investirli nel modo giusto, cercando di fare cose meno inquinanti per il pianeta. Grazie. Allora, io anche ho deciso di non comprare quasi niente online, quindi non uso Amazon, non uso Vinted, queste cose qua. E poi vado a riempire tutti i prodotti alla spina, cioè il bagnoschiuma, il sapone dei piatti, tutte queste cose. Io non le compro in plastica, ma vado in un negozio dove porto le mie bottiglie e lui me le riempie, così spreco meno plastica. E poi cos'altro? Ho la macchina a metano e cerco di usarla quasi sempre a metano, così la benzina, cioè perché la benzina inquina di più. E direi che faccio questo per adesso. Grazie. Niente, grazie. Ciao. Allora, secondo me, oltre a quello che hanno detto loro e i nostri nuovi amici, sarebbe da usare di più, anzi quasi esclusivamente i mezzi pubblici, quindi usare sempre meno le macchine, anche se sono a metano, anche se sono sostenibili, e in più elettriche, esatto, e in più bisognerebbe che i governi si mettessero d'accordo, facessero molta pressione sulle varie industrie e mettesse tante sanzioni, in modo tale che oltre all'iniziativa individuale ci sia un'iniziativa collettiva. Grazie a te. Ciao, io sono Alessandro, e tu come ti chiami? Vango. Qual è il tuo... ti piacciono gli alberi? Qual è il tuo frutto preferito? La casa. La pesca? La casa. La casa? La casa. La casa. La caccia. Il tuo albero preferito? E il tuo frutto preferito? La casa. Ah, ok. E invece il tuo albero preferito qual è? È l'albero della casa. Ah. Grazie. Ciao. Ciao Django, grazie. Ciao Alessandro. Ciao. Ciao Mascotte, dove siamo oggi? Al parco. Quale parco? Parco. Parco di? Parco. Ok, Mascotte, dica qualcos'altro per cortesia. Parco. Qualcuno mi sa dire in che posto siamo? Viviciatico. Grazie. No, siamo a parco. Ho capito, grazie Mascotte. Mi sa dire che giorno è oggi? Parco. Molto bene. Anche se avessi saputo non l'avrei saputo dire perché mi dimentico sempre. Ah, grazie. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Man out of you. Don't stop me. Don't Stop Me Now, i Queen. Bene, siamo arrivati di corsa alla fine di questa puntata, quindi direi che siamo ai saluti e velocemente vorrei dire che questa puntata è dedicata a tutti quelli che non c'erano in studio con me, tutto lo staff di Dedicato, tutti quelli che mi hanno fatto parlare, che mi hanno fatto scegliere la musica e che mi hanno fatto stare in studio per una volta da sola. Quindi è dedicato a voi. Un po' mi siete mancati, ma non troppo, insomma, ecco, non vi esaltate. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole va sempre più giù.